Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 dedicato al lavoro visto da un'angolazione femminile, il programma che comincia ogni sua puntata ricordandovi di sottrarvi al multitasking, alla grande fregatura inventata subdolamente per farci sentire in colpa. È un mantra quello, ognuno c'ha le sue ossessioni. Io lo ricordo a voi e soprattutto a me, perché nonostante tutto il mio predicare bene, sono una che sul multitasking razzola malissimo. Eppure, lo so bene io, lo sapete anche voi, l'hanno detto gli scienziati dell'MIT che il multitasking fa male al cervello, eppure la first daughter Ivanka Trump nel suo libro Women Who Work lamenta le difficoltà del fare tutto e tutto insieme. Quindi almeno la domenica facciamo una cosa per volta. Oppure, se come spero state ascoltando Nessuna è perfetta, fatene almeno soltanto due. E siccome la domenica dovrebbe essere, oltre che il giorno dedicato alla preghiera o alla meditazione, se si è credenti, dovrebbe anche essere proprio il giorno del relax, noi di relax parliamo, ma di relax applicato al mondo del lavoro, perché di lavoro ogni domenica ci occupiamo, a Nessuna è perfetta. È possibile conciliare relax e lavoro? È un ossimoro, una contraddizione? Ebbene, pare proprio che sia possibile. Molte grandi aziende, da quelle americane che sono spesso all'avanguardia, da Goldman Sachs ad American Express, ma anche le generali, ma tante altre aziende, stanno scoprendo i vantaggi del creare delle oasi di tranquillità per meditazione, per yoga all'interno delle loro aziende. E tutto questo si concretizza poi nel fatto che sempre più dipendenti di azienda scoprono la pratica dello yoga proprio lavorando. Ma prima di rilassarci pensando a come si può lavorare e avere le pause dedicate allo yoga, vorrei tornare su un argomento che abbiamo già affrontato qui a Nessuna è perfetta. Noi parliamo spesso di cinema perché è un bel modo di trascorrere la domenica e di imparare anche cose che delle nostre realtà spesso ignoriamo. Noto, abbiamo già approfondito questo tema qualche puntata fa, ma insomma noto che c'è una nuova tendenza, un filone nuovo del cinema, che è quello che si concentra su forti figure femminili di donne che lavorano e che hanno vite faticose, non vite glamour. Ne abbiamo parlato con Sole, Cuore e Amore di Daniele Vicari, e oggi parliamo di un film che ha avuto uno straordinario successo, la cui protagonista è stata premiata di recente al Festival di Cannes. Insomma, parliamo di Fortunata, il nuovo film di Sergio Castellitto, regista e sceneggiatore insieme alla moglie Margaret Mazzantini. E indovinate un po' chi è la nostra Sunday Girl di questa puntata di Nessuna è perfetta? I'm a girl from a lonely street, cold as ice cream, still as Perfetta, buona domenica. Jasmine Trinca, premiata a Cannes come migliore attrice proprio per il film Fortunata. Intanto buona domenica e soprattutto congratulazioni. Buongiorno a tutti e grazie. Ecco, Jasmine, nel film Fortunata tu hai un ruolo formidabile. Margaret Mazzantini ha definito il film una tragedia greca ambientata a Torpignattara, che è un quartiere periferico di Roma, un quartiere popolare della Roma di periferia. Perché questa storia e questo personaggio sono così forti? Beh, Fortunata, lo dice il titolo, in realtà poi la sua storia non è poi così fortunata. È una donna che combatte duramente per portare a termine le sue giornate, per compiere, diciamo, la sua vita. Una donna che lavora, fa la parrucchiera a domicilio, ma in realtà il suo sogno è quello proprio di aprire un salone tutto suo, questo piccolo grande sogno che cercherà di inseguire per tutto il film, il racconto. E ha una figlia che si chiama Barbara, alla quale è legata in maniera viscerale, ma è una donna assolutamente così fallibile, no? È una donna... Beh, perché tra l'altro è sola a caricarsi... tutto il peso economico di essere madre single. Sì, ma io poi quando dico che in fondo è un'eroina del quotidiano, Fortunata, parlo proprio di questo, parlo di tante donne che questa vita la fanno realmente, sono donne che lavorano e che sono anche madri, ed essere madri, insomma, è veramente, diciamo, un impegno esistenziale meraviglioso, ma pieno. Quindi una donna che veramente combatte la sua battaglia, mi viene sempre da pensare a lei non come una principessa, no? da salvare, ma come una guerriera. Una guerriera, una sorta di cavaliere lei stessa, che alla fine conta sulle proprie forze, su questo amore viscerale con la figlia per salvarsi e liberarsi. Vi chiedo un attimo di pazienza e lo chiedo anche alla nostra Sunday Girl, Jasmine Trinca. Noi torniamo tra pochissimo. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta. Noi stavamo chiacchierando con l'attrice che ha avuto un bellissimo riconoscimento al Festival di Cannes, con Jasmine Trinca, premiata come migliore attrice per il film Fortunata. E Jasmine, qui a Nessuna è perfetta, lo dicevo prima, parliamo spesso di queste donne combattenti che il cinema italiano ha finalmente ricominciato a raccontare. Ne abbiamo parlato con Isabella Aragonese a proposito di Sole, Cuore e Amore, e ora parliamo di Fortunata, un'altra donna della periferia romana, un personaggio pop, una giovane donna che porta zeppe altissime, ha capelli colorati, e dietro questa immagine, appunto, pop ha una forza notevolissima. Finalmente anche il cinema italiano, dopo quello francese e dopo quello inglese, ha scoperto la forza di protagoniste che hanno vite normali e spesso vite difficili. Come mai, secondo te? Ma questa periferia che racconta Sergio nel suo film, e che racconta anche Margaret, è una periferia non soltanto romana, è un posto che potrebbe essere chiaramente ovunque nel mondo, ma io penso sempre, ecco, alla periferia umana. Sono persone reali, semplici, per le quali la necessità del vivere, insomma, è veramente la prima e unica cosa. Persone che sono accanto a noi, e secondo me questo in generale, quando gli intellettuali o gli artisti riescono ad aprire gli occhi propri prima e poi a farli aprire agli altri, quindi raccontando quello che è il mondo reale, è sempre, insomma, un bene. Chiaramente questo è un film che però non è un film, come dire, realistico, è un film surreale. Sul reale, voglio sul dire. Sul reale. Esatto. Senti, ma anche surreale in qualche modo, perché Sergio ha una visione che per cui trasfigura in maniera molto pop e colorata le cose, è anche una sorta di fiaba. Senti, Jasmine, noi qui a Nessuno è Perfetta ci occupiamo tutte le domeniche di lavoro, cerchiamo di trattarlo da angolazioni sempre diverse, ma con un punto di vista femminile. E mi colpisce che proprio il lavoro, no? Il sogno di aprire un salone tutto suo, un piccolo negozio tutto suo, sia il motore che insieme all'amore per la figlia manda avanti il giorno per giorno di Fortunata. Il lavoro è un punto, cioè è uno stabilizzatore delle vite, e mi viene da pensare che quanto si rinunci al lavoro delle donne in Italia, no? Perché abbiamo una disoccupazione femminile così alta, e chissà quanta energia potrebbe essere sprigionata invece se tutte queste donne lavorassero. Per te che cos'è il lavoro? Una gratificazione, il senso dell'esistenza, oppure una cosa che se c'è c'è, se non c'è non c'è? No, il lavoro è fondamentale. Io sono ancora per l'antica massima che il lavoro nobilita l'uomo. Essere in movimento, avere la testa piena e carica e una forma di gratificazione, quale che sia il proprio lavoro, insomma, l'idea di riuscire a realizzare qualcosa, ad essere in qualche modo creativi, io lo trovo fondamentale. Trovo molto giusto il discorso che stai facendo sulle donne, verso le quali, insomma, ci dovrebbe essere veramente uno sguardo di profonda attenzione. Mi piacerebbe che il mio paese tornasse sempre di più ad avere un grande sguardo così sul sociale, no? Che penso, insomma, la tutela dei lavoratori, sai, in un momento anche dove qui parliamo degli ultimi, diciamo, in questo film, ma in realtà adesso questo è il quotidiano, ci sono persone di 50-60 anni, insomma, che perdono il lavoro praticamente da un giorno all'altro, quindi io la trovo una condizione più che destabilizzante, e bisogna, per quanto sia difficile, correre ai ripari. Nel cast molto ricco che c'è nel film diretto da Sergio Casellito, perché ci sei tu, c'è Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Anna Scigulla, come funziona il mix del lavorare per mesi insieme ai colleghi? Nascono amicizie, ci si conosce meglio, e se capita di non sopportarsi, come si fa sul set? In teoria si dovrebbe far finta, quello che è un po' tutto il nostro, siete attori, eh? Il nostro senso, il nostro lavoro. Qui Sergio ha veramente, oltre che ha fatto un regalo a ciascuno di noi, perché è un grande regista pieno di entusiasmo, ma anche, insomma, un grandissimo attore, quindi per tutti noi attori il lavoro con lui è stato particolarmente intenso, anche estremo e difficile, ma gratificante, no? Sergio comunque ha creato un gruppo. Parlavi di tragedia greca all'inizio. Fortunata potrebbe essere la protagonista di questo film, ma in realtà per me i protagonisti di questo film sono, appunto, tutti loro. È un vero e proprio coro, il, no? Coro che c'è, su sì. Questo che fa da contraltare nella storia, continua la narrazione, quindi si è creato un vero legame. Chiaramente poi, siccome siamo attori e siamo un po' passerelli, no? Questa cosa cambia, con ciascuno a seconda del ruolo, per cui Alessandro Borghi, che è il mio amico fraterno occitano, ecco, si è creato con lui un rapporto appunto di fratellanza. E Stefano, uomo amabile, attore insomma veramente generoso, era sicuramente il nostro affascinante ma anche ambiguo, no? Sì. E devo dire che per me l'incontro con Anna Scigull è stato straordinario, grandissima attrice veramente, non perché lo si debba riconoscere, ma perché lo ha proprio dimostrato. L'attrice di Fassbinder. Film indimenticabili, veramente. Questa bimba che è mia figlia nel film, che si chiama Nicole Cent'anni, che ha dalla sua un grandissimo talento e un'enorme resistenza che è così rara, no? Tra i bambini, insomma, una piccola adulta alla quale auguro però di conservare la sua fanciullezza così integra. Jasmine, l'ultima cosa, noi in questa puntata poi parleremo di ambienti di lavoro e di come in molte aziende si sta cercando di rendere anche meno pesante la vita aziendale, aiutando per esempio i dipendenti a praticare discipline di relax come lo yoga. Tu pratichi yoga, pratichi meditazione, come ti rilassi fuori e sul set? A saperlo fare, rilassarsi. No, in realtà sì, ho fatto yoga per qualche anno, era uno yoga che si chiama Ashtanga, insomma molto sì, anche dinamico, sì, e questo faceva bene alla mente e al corpo. E invece attualmente proprio mi piacerebbe trovare la chiave per rilassarmi. Sul set però è fondamentale la concentrazione, penso che sai, cioè, spesso si è molto distratti nella vita, nelle cose, invece questo lavoro qua lo devi fare concentrato. Quindi pochi social media, ammesso che tu li frequenti normalmente. Ma direi proprio via il telefonino mentre si lavora. Mai. Allora sei con noi nella nostra battaglia contro il multitasking, che comprende spesso il fatto di stare su due o tre cellulari contemporaneamente o mandare mail e rispondere al telefono. Grazie a Jasmine Trinca per essere stata con noi a Nessuna è Perfetta, e vi ricordo il suo personaggio Fortunata, il nuovo film di Sergio Castellitto. Grazie a voi. Grazie. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci alla seconda parte di Nessuna è perfetta, e come dicevamo con la nostra Sunday Girl, noi oggi parliamo di yoga come uno degli elementi di novità che alcune aziende stanno introducendo nelle loro vite aziendali per alleggerire lo stress dei dipendenti e farli stare meglio. Ce ne sono di grandi, grandissime, cito Goldman Sachs, Generali, American Express, multinazionali che hanno inserito i corsi di yoga in azienda, ma questo si faceva addirittura anche anni fa in Rizzoli quando lavoravo appunto nella sede milanese di Crescenzago. Anche lì c'erano i corsi di yoga. Ma che cosa c'è in più adesso? C'è la tendenza nelle aziende appunto a venire incontro a quelle che sono le esigenze di chi lavora e magari finisce tardi e non riesce mai a andare dal calzolaio o mandare una raccomandata. Tutte cose che ci facciamo raccontare dagli ospiti di questa seconda parte di Nessuna è Perfetta. Ve li presento subito. Luigi Motta, direttore del personale, organizzazione e sistemi di Mediaset. Benvenuto. Sì, buongiorno. E Alessia Tanzi, fondatrice di Yoga Coaching. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, Motta, io ricordo di aver fatto una inchiesta, un lavoro un po' di visita nella sede di Cologno Monzese di Mediaset, perché alcuni anni fa eravate già all'avanguardia, perché oltre alla palestra e all'ufficio postale avevate anche la banca per i dipendenti, il calzolaio, che cos'altro avete a disposizione? Abbiamo realizzato ormai qualche anno fa, quasi 10 anni fa, un centro servizi per i dipendenti che chiamiamo Media Center, che all'interno ha molti servizi, appunto un centro fitness, un centro medico con ambulatori, con medici specialisti, una banca, un ufficio postale, un'area shopping in cui a rotazione si alternano ogni settimana commercianti diversi che propongono i loro prodotti, una farmacia, un asilo, una libreria, un asilo nido per i figli dei dipendenti, un'agenzia viaggi e poi anche i servizi di lavanderia, di calzolaio e un mini market. Ecco, tutto ciò lo fate perché venite incontro alle esigenze dei vostri dipendenti e siete buonissimi, o lo fate perché anche un po' cinicamente così i dipendenti lavorano di più e non staccano in anticipo dall'azienda? No, magari l'obiettivo è quello di riuscire a creare un contesto lavorativo che sia il più possibile confortevole, quindi insomma non è beneficenza, perché questo in realtà poi si traduce in un clima di lavoro e quindi in una, come dire, adesione anche alla cultura dell'azienda, che sicuramente è migliore, no? Quindi come l'azienda si prende cura delle esigenze delle persone, alla fine anche le persone di fronte alle esigenze dell'azienda hanno un atteggiamento diverso. Certo, certo. Alessia Tanzi, secondo lei perché sempre più nelle grandi e anche medie aziende lo yoga viene inserito tra i benefit di cui possono disporre i dipendenti? Qual è la ragione? Dunque, c'è sicuramente una tendenza generale, sicuramente perché funziona di base, però ecco, anni fa c'era molta più, insomma, erano viste con più sospetto, diciamo, tutte queste attività, mentre adesso c'è molta più apertura. C'è molta più cultura anche in questo senso, ci sono tante persone che a livello individuale magari sperimentano la meditazione, lo yoga, ne comprendono anche, ne sperimentano i benefici, e queste stesse persone sono all'interno delle aziende, no? Per cui diciamo che culturalmente c'è molta più apertura. Principalmente è questo. Poi, ma le aziende stimolano i dipendenti a prendere parte, oppure una cosa lasciata alla iniziativa del singolo? Individuale. Diciamo che l'azienda, il ruolo dell'azienda è quello di dare questa opportunità, no? Di organizzare eventualmente gli incontri e di dare questa opportunità. Poi in genere viene lasciata la scelta personale se partecipare o non partecipare. Perché comunque è un percorso che in qualche modo implica un pochino un lavoro su di sé, no? Certo. Per cui non tutti per forza hanno voglia in quel momento, in quel modo, di fare un lavoro su di sé. Devo dire che in generale c'è sempre molto interesse, per cui la partecipazione in genere c'è, le persone sono rispondono sempre molto positivamente a questo tipo di stimoli. Senta Luigi Motta, quanto è costato realizzare questo centro Mediaset? Cioè, mettere in piedi non soltanto un asilo e una palestra, ma anche tutte le altre attività, le poste, la banca, il calzolaio, la lavanderia. Tutti i servizi. Ma dunque, noi abbiamo sostenuto ormai anni fa un investimento per ristrutturare questi spazi, che sono molto ampi, perché parliamo di un centro di più di 4.000 metri quadri. Quindi all'epoca ricordo che i lavori costarono 1 milione di euro, credo. Dopodiché oggi non abbiamo sostanzialmente costi di gestione, perché riusciamo a far incontrare, come dire, la domanda con l'offerta. Quindi da un lato chi viene a prestare servizi qui, quindi chi gestisce per esempio il centro fitness o il supermercato, incontra una domanda che è quella dei nostri dipendenti, che alla fine trova un equilibrio in termini economici. Quindi noi offriamo dei servizi a un costo minore di quelli disponibili sul mercato, dello stesso livello di qualità, e dall'altra parte l'operatore ha il vantaggio di avere un mercato, diciamo, chiuso. Ecco, voi ormai avete una esperienza piuttosto lunga, perché si tratta di 10 anni, no? Di questo, mettiamolo così, aiuto pratico ai dipendenti. Nella sua esperienza, qual è la cosa tra tutte che ha fatto più piacere ai vostri dipendenti, della quale dispongono con più frequenza? Ma guardi, ci sono servizi rivolti in realtà a una popolazione abbastanza limitata, come quella dell'asilo nido, perché è rivolto appunto alle persone che hanno figli in un'età tra 1 e 3 anni, quindi non sono moltissime, che però in termini, come dire, di riscontro su tutta la popolazione sono molto apprezzati. Molto apprezzati, perché, certo. No, vengono vissuti come il fatto che l'azienda realizzi un servizio di tipo sociale per le persone. Quelli sicuramente più interessanti sono per esempio il centro fitness o la ristorazione, dove quasi tutti i dipendenti li utilizzano, sì. certo. E sempre parlando di fitness, Alessia Tanzi, come funziona? Dopo una giornata di lavoro uno fa yoga per scaricare le tensioni, o lo fanno all'ora pranzo e saltano il pranzo? Qual è la metodologia più frequente nelle aziende? Ma io posso parlare della nostra esperienza. In realtà noi non facciamo le classiche lezioni di yoga sul tappetino, facciamo piuttosto dei training, usiamo dei lavori principalmente di meditazione, per cui le persone stanno lavorando da sedute, per cui non facciamo yoga, insomma, stretching o allungamenti, eccetera. E peraltro non è vissuto neanche come un momento di rilassamento dopo il lavoro, ma più che altro come uno strumento per essere poi da un lato più efficace nel lavoro, ma anche per vivere meglio, no? Tante volte quello che ci interessa sono sì i risultati, ma sono anche come raggiungiamo i risultati, come lavoriamo con gli altri, qual è l'atmosfera all'interno dell'ambiente di lavoro, eccetera. E per cui sostanzialmente quel che facciamo noi, però ripeto, parlo della nostra esperienza. Cioè voi siete chiamati da aziende? Alle aziende, sì, facciamo dei training di solito in orario lavorativo, perché comunque è come le altre formazioni, è una formazione a tutti gli effetti, per cui in genere durante l'orario lavorativo, per cui non né l'ora di pranzo non è tanto adeguata, perché poi le persone devono anche darsi il tempo e lo spazio, no? Per questo tipo di pratica, per cui di preferenza lo facciamo la mattina. Facciamo anche dei training di mezza giornata, per cui nel caso tutta la mattina, oppure anche a fine giornata, può essere magari fine pomeriggio, ecco, però non si va oltre l'orario. Avete visto una crescita della domanda da parte delle aziende di questi corsi che organizzate Ma per i dipendenti? Sicuramente sì, sicuramente sì, proprio perché appunto c'è un interesse crescente da parte delle aziende, ma c'è un interesse crescente anche da parte delle persone, no? Nel senso che non è che per forza questi training debbano essere solo per chi vuole fare un percorso spirituale, no? Per mm-hmm. essere di chi è già portato a questo. In realtà gli strumenti che ci forniscono queste discipline, che sono molto antiche, sono disponibili per tutti noi per gestire meglio la nostra vita quotidiana, no? Per affrontare meglio le emergenze, le situazioni di stress, per raggiungere anche con più determinazione i nostri obiettivi, per aumentare il nostro impatto personale, per cui comunque sono tutti temi che stanno cari a tutti noi, soprattutto quando abbiamo una vita insomma intensa. Ecco. Senta Luigi Motta, in chiusura, che cos'è che manca ancora al vostro centro Mediaset? Cos'è la cosa che vi piacerebbe o che piacerebbe a lei che ci fosse e non c'è ancora? Ma noi credo che abbiamo tentato di mettere in campo tutte le iniziative che avessero un interesse per le nostre per le persone che lavorano. Yoga lo fate? Noi. Lo fate yoga? Yoga lo facciamo in una versione, devo dire, più fitness di quella che ho sentito raccontare adesso, che è all'interno di questo centro, che fa anche corsi come tutti i club diciamo presenti, no, nelle città. Stiamo lavorando oggi a servizi esterni, per esempio una delle ultime iniziative è stata quella nel periodo estivo, dove le persone hanno il problema dei figli che non sono a scuola, no. Infatti ecco, abbiamo fatto delle convenzioni con dei centri estivi per cui le persone possono venire con i figli in ufficio e ci sono qui delle navette che prendono i ragazzi, i bambini e li portano nei centri estivi e li riportano al termine dell'orario di lavoro. Quindi stiamo lavorando oggi anche su servizi esterni all'azienda. Ecco, credo che madri e padri apprezzino, perché è uno dei grandi problemi delle persone con figli in età scolare. Chiudono le scuole a giugno e fino a settembre non puoi stare in vacanza 2 mesi come facevano le mamme un tempo negli anni 60, non è più così. Io ringrazio Luigi Motta, direttore del personale, organizzazione e sistemi di Mediaset, di averci raccontato l'esperienza di Cologno sull'alleggerire la vita pratica dei dipendenti e ringrazio la nostra esperta che fa la stessa cosa per quanto riguarda il sistema di coaching con le aziende, Alessia Tanzi. Buona domenica a entrambi. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Ecco, finale di puntata, invece di avere una storia che di solito vi raccontiamo attraverso la mail che riceviamo da un'ascoltatrice, questa volta invece il finale sono due storie che vi raccontano i diretti protagonisti. Perché? Perché Nessuna è perfetta, lo ripetiamo ancora una volta, è una trasmissione che si occupa di lavoro e yoga non è solo una passione, può diventare anche una scelta imprenditoriale ed è una scelta che per esempio due trentenni hanno fatto, uno a Roma e l'altra a Brescia, e ora ci raccontano perché, com'è nata questa idea, quanta fatica può essere anche costato mettere su un centro, piccolo o grande che sia, di yoga. Allora, il primo, vi chiedo di presentarvi brevissimamente, è Federico, Roma, quindi nome, cognome e età. Perfetto, intanto grazie per insomma, avermi coinvolto, sono Federico Insabato, ho 35 anni, appunto sono romano. Come è nata l'idea di aprire un centro yoga? Perché è, insomma, è difficile fare impresa in questo settore a Roma? Guarda, è nato da una passione e per trasformare questa passione poi in una fonte di sostentamento bisogna andarci, insomma, fare con attenzione, perché lo yoga nasce per essere una pratica, una disciplina, se non gratuita, comunque che cerca di diffondersi senza una ottica imprenditoriale. Quindi le attenzioni vanno, insomma, va fatta molta attenzione a questa, in questa direzione. Dopodiché io ho iniziato come libero professionista, come insegnante, anche massaggiatore ayurvedico, facendomi conoscere, quindi il primo mio bacino di clienti, di allievi, eccetera, e poi crescendo l'interesse da parte delle persone con cui entravo in contatto, ho capito che si poteva strutturare qualcosa di più sostanzioso, come ad esempio un'associazione. Attualmente ho un'associazione che si chiama Yoga Yur e che è attiva su Roma con due sedi, e cerchiamo di fare yoga in maniera non imprenditoriale ma appassionata. E si riesce ad avere un buon bilanciamento, diciamo, tra investimento e costi e profitti? Lo yoga, diciamo, non ha grosse necessità di grosse infrastrutture o di grossi, insomma, strumenti per essere praticato, quindi basta una bella sala e poco altro. Buoni insegnanti? Assolutamente buoni insegnanti, quello è l'ingrediente fondamentale che non deve mancare. Detto questo, l'interesse è sicuramente in aumento, sia di curiosi, sia chi si avvicina per una volta e poi capisce che magari non era quello che cercava, ma invece anche tante altre persone che si innamorano casualmente di questa disciplina, perché ci entra in contatto appunto per caso. Quindi sì, l'interesse è alto e quindi anche la risposta e il guadagno, se così vogliamo dire. Elisabetta, nome, cognome, età, e perché hai deciso di mettere in piedi un centro yoga a Brescia? Sono Elisabetta, 30 anni, ho deciso di aprire un centro a Brescia perché la pratica dello yoga secondo me è meravigliosa ed è assolutamente il mio percorso nella mia vita, è quello che voglio fare. Intanto è molto bello il modo in cui mette in contatto con le persone, tutte le possibilità che dà di conoscere e di approfondire relazioni e rapporti come insegnante, come centro. E ci sono secondo me molte difficoltà in termini di competizione oggi, perché è diventata una cosa molto di moda. Certo. E quindi rischia un po' di perdere, secondo me, il proprio valore in certo senso, diventando molto commerciale. E come, come si fa, Elisabetta, in una città appunto come Brescia, dove per quanta gente voglia praticare yoga, però se ci sono 5 o 6 centri, poi la competizione è davvero difficile. Come si fa a cercare di caratterizzarsi e a mantenere la clientela? Lo chiedo a te perché sei molto giovane e quindi mi incuriosisce questo tuo percorso di imprenditrice anche. Guarda, secondo me noi per esempio comunque occupiamo all'interno dello yoga una nicchia, nel senso che siamo associati a Jyoti, ma una tipologia un po' particolare di yoga. Come si chiama? E la nostra è una scelta. Siamo associati a Jyotim, è un tipo di Hatha Yoga, dove comunque è molto importante l'allineamento, la precisione delle asana, delle posizioni. Occupando una nicchia, quello che succede è che all'inizio è più difficile, perché chiaramente magari le persone cercano delle cose più facili, ma poi nel tempo quelli che diventano i tuoi clienti sono molto fedeli, non so come dire, si crea un legame molto forte, perché essendo una cosa molto particolare, diciamo che è quasi irreplicabile, ecco. Certo. Federico, secondo me in generale qualunque attività si faccia è importante che abbia la sua unicità, ecco. che, sì, che ci si differenzi. Che ci si differenzi. In qualunque business. Federico, se dovessi dare un consiglio a giovani che ci stanno ascoltando e che magari avrebbero voglia di aprire un loro piccolo centro, magari in un paese invece che in una grande città, qual è l'errore da evitare dall'esperienza, quello che hai imparato tu? Allora, credo come sempre la gavetta aiuti, quindi partirei da un consiglio in positivo di iniziare ad affiancarsi magari a un centro, una struttura che è già strutturata. Dopodiché di fare un passo alla volta e quindi di non scoraggiarsi se dopo il primo anno si hanno pochi allievi, perché appunto anche un po' come diceva Elisabetta, se si ha una qualità e se la si mette in campo, la risposta magari ci mette un po' a essere a comparire, quindi l'unicità, la qualità a essere recepita. Quindi anche se non si hanno grandissime risorse, di fare un passo alla volta e strutturarsi piano piano. Elisabetta, un errore da non commettere che dalla tua esperienza ti sentiresti di comunicare a chi ci ascolta e ha voglia di intraprendere la vostra stessa strada? Ma io per esempio all'inizio devo dire che ho fatto degli investimenti in termini di pubblicità che non hanno portato i risultati. Poi sì, esatto, molto magari su giornali, su dei modi che forse non sono appropriati per lo yoga, e alla fine mi rendo conto che è veramente essere sul posto, aspettare tempo, crearsi un nome e passaparola, più che investire cifre per farsi conoscere. Ho capito. Sì. Bene, secondo me paga di più questo. Io ringrazio Elisabetta e ringrazio Federico, due giovanissimi, una 30, l'altro 35 anni, che hanno scelto di diventare imprenditori partendo da una passione personale che era appunto quella di fare yoga e insegnare yoga. Grazie a entrambi e buona domenica. Buona domenica a voi che ci avete seguito anche.